puoi passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. E facciamo sentire ancora una volta questa roba. Dai, su Parenzo, facciamo sentire l'ennesimo scazzo dell'ex ministro della difesa La Russa con gli inviati di Piazza Pulita. Ormai, sì, ancora una volta, ormai è quasi un classico, diciamo la verità. Un format. Esatto, bravo. C'è Piazza Pulita, c'è un programma di Santoro, c'è un programma battagliero, diciamo, con inviati che rompono le balle in giro, rompono le balle in senso buono naturalmente, no, che stanno lì a rompere le scatole, a fare domande, a insistere, anche essere un po' invadenti. Come facciamo noi? Sì, però per stimolare una reazione, insomma, è un format ormai, diciamolo, è un format il nostro, è un format anche questo qua. E allora, La Russa risponde in questo modo, ci casca o ormai è talmente abituato che lo fa apposta? Sentiamo. Non c'è sul tappeto qualcuno che se ne va e qualcuno che rimane. Neanche cioè, Alemanno che ha detto nell'intervista. Sto rispondendo alla tua domanda, vuoi che ti risponda? C'è da scegliere e da sciogliere dei nodi. Il primo nodo è la legge elettorale, il secondo nodo è capire. Siete d'accordo su questo? C'è da sciogliere, certo che non siamo d'accordo col PD. Che cos'è che siete d'accordo? Col PD, non c'è. Del PD rispondo, rispondo io le domande col tempo che voglio, ok? E poi arrivederci. Ma non sei in grado, è lei che non me la deve fare. Rispondo io, com'è che faceva? Rispondo io alle domande col tempo che voglio. Però ottima anche la musica sotto inquietante che hanno messo, Vabbè, ma quello chi se ne frega, Nel montaggio, beh, Roba televisiva, ma chi se ne frega? Dobbiamo parlare a un pubblico più ampio. La televisione che ce ne frega a noi, La Russa, sai leggere? Sono gli XN che se ne vanno e Berlusconi che ti vuole mandare via. Ma sono i tuoi amici che ce l'hanno con te o sei tu che ti sei reso insopportabile? Non lo so, mi dica lei. E neanche ma io lo so. XN se ne vanno loro oppure Berlusconi? Da dove se ne vanno? PDL, si dice così. Ma tu sai leggere? Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino e hai il naso tutto blu. In un'intervista al settimanale Chi, Flavio Briatore, l'altro giorno ospite della Zanzara, dice: se fossi ministro del turismo il PIL, il prodotto interno lordo, aumenterebbe del 20% in più. Però c'è da offrirvi come al solito uno straordinario, strepitoso, ormai mi sono affezionato al personaggio, dice un sacco di stronzate, diciamola tutta, come noi, però mi sono affezionato ad Antonio Pennacchi, lo dico apertamente, mi sono affezionato, dice un sacco di stronzate. Ma perché dici ne così? Dice tante, ne dice tantissime, Dov'era il signor Pennacchi? No, ne dice tante, ma le diciamo pure noi, per cui non c'è problema, era anche qui a Piazza Pulita, a un certo punto... dice vabbè, ma devono collaborare Renzi e Bersani, o Renzi e, insomma, chi vince e chi perde deve collaborare, anche la Clinton l'ha fatto e litiga con Formigli. Allora, pure la Hillary Clinton, basta, grazie, ho finito, grazie. Pure la Hillary Clinton che fece la lotta contro Obama. Poi no, però è andata a Pennacchi, però ha parlato, grazie, che cazzo, non mi chiama più, buonanotte. E isoliamola quella, che cazzo, non mi chiama più, buonanotte. E c'ha ragione Pennacchi, scusa, c'ha ragione Pennacchi. Senti la risposta sul Monti Bis, senti. Sì. Lei, l'ipotesi di un ritorno del Monti Bis, come lo vede? Faccio i corna, che devo fare? E siamo al top, E siamo al top. Poi dice: non ci voglio stare qui sul Trespolo, perché l'avevano messo nel solito Trespolo, là riservato ad alcuni ospiti. Pennacchi, resti così, resti Pennacchi, così. Vi è qua, cosa vuoi? Infatti non ci volevo sta qua, Antonio, non qua. Ma io lo so, t'ha messo. Pennacchi, che cosa vuole dire? Non mi schiaffo con voi, ma se no la messo, gente se ne adesso cazzo. T'hanno messo sul Trespolo apposta. Pennacchi. sopra i pattini a rotelle. La clamorosa gaffe di Vladimir Luxuria dalla Parodi, Parodi Live. Pensa che Steve Jobs sia vivo. Vediamo il prossimo, il grande Steve Jobs. Credo anche lui sia irrimediabilmente etero. Speriamo anche praticante, visto che queste persone poi si dedicano tantissimo ad altro. Ecco, vabbè, ormai intanto non può cambiare più. Vediamo la prossima, vediamo se la riconosci. Beh, non so se avete capito, non so se avete capito. La confessione di Crosetto. Guido Crosetto, il mitico Guido Crosetto, PDL senza democrazia, scelti dal principe, invidioso dal centro-sinistra. Questa cosa che si chiama democrazia interna di partito da noi non esiste, quindi alcune cose mi annoiano un po', su altre sono abbastanza invidioso. Il fatto che nel centro-sinistra ci sia un campo in cui si possono confrontare Vendola, Bersani, Renzi e tutti gli altri è un fatto positivo per la democrazia. La classe dirigente si seleziona così. O il principe di Benedice, ed è un modo che a me non piace, ma che nel mio partito va molto di moda. Basta fare una puntura e tutto passerà. I nodi stanno venendo al pettine, ho voglia di grandi battaglie questa sera, caro Parenzo. Battaglie. Infatti è giusto dedicare. Guarda subito questa vergogna dei radicali, guarda questa vergogna dei radicali. No, aspetta, guarda questa vergogna dei radicali. Lo spot sull'eutanasia, una vergogna. Vergognati anche tu. Io non. Ma vergognati tu, che una vergognati grande battaglia di libertà. Vergognati, non si fanno gli spot. Non si fanno ma gli spot. Certo, siate vivi, fatevi vivi, fatevi vivi. Ok, dai, siamo pronti. Giriamo. Eutanasia legale, scena prima, take 5. E azione. Ma dove sono i protagonisti? Cerchiamo malati terminali per ruolo da attore protagonista. Anche prima esperienza. Fatevi vivi su eutanasialegale.it. Non è un gioco. E infatti, l'eutanasia. Infatti, fatevi vivi. Ma che è? Fatevi vivi. È una buffonata, per lo dai. Spot su. Sull'eutanasia a favore dell'eutanasia, come in tutti è i una paesi. Buffonata, civili, è una buffonata. Il diritto a non soffrire. Ma quali paesi il civili? A ma che c'è? Disporre della propria vita e del proprio corpo. Vabbè, adesso fai il militante radicale. Non è radicale, non è lo Stato proprietario del mio corpo, hai capito? Questo è un tema serissimo, vabbè. Si affronta con i rutti e le puzzette, è un tema troppo serio. Stato non deve stai zitto, del mio corpo, stai zitto, stai zitto, calma, di non fare il militante. Alemanno, no, militante. Sei un militante, sì. Alemanno, sono candidato alle primarie, però senza il PDL, ci vuole una novità. Ovviamente sono candidato alle primarie del centrodestra e penso che però, e questo vedo che corrisponde anche un po' alla linea nazionale che sta emergendo, non è opportuno ripresentare una lista del PDL né a Roma né a Lazio. Bisogna creare una nuova lista che non sia solo un lifting, ma che sia una profonda trasformazione del principale partito di centrodestra. Grandi sommovimenti nella politica italiana. Sentiamo un ascoltatore subito. Alessandro dalla provincia di Ancona, buonasera. Forse vale la pena però. Alessandro, stai zitto. Alessandro, dedicare la puntata a Ioani Sanchez. Ma non me ne può fregare di meno. Alessandro, la blogger arrestata a Cuba. Sì, va bene, d'accordo, dedichiamola pure. Alessandro dalla provincia di Ancona, su. Ma come? Ma Ioani Sanchez. Alessandro. Non c'è. Marco da Milano. Marco? Non c'è. Livio dalla provincia di Caserta. Adesso mi arrabbio, eh. Livio dalla provincia di Caserta. Non c'è nemmeno lui. Rino da Messina. Sono qua. Eccoci qui. Buonasera. Complimenti glieli fanno tutti. Io li salto per brevità. E volevo farle una domanda. Sai, io sono un giovanotto di 7 decenni. E dopo un passato di farmacista, mamma mia. Vabbè, Rino, vada al sodo, non possiamo fare adesso la sua vita. Il sodo su è questo: come facciamo a liberarci di questa casta, perché così è stata definita e così è, perché non se ne vuole andare, non approva, non si sono tolti con tutte queste cose, non si sono tolti un euro, qualcuno addirittura. Rino, andiamo. Lei che... Come si fa? Come si fa? Io le faccio questa semplice domanda: come si fa a liberarci di questa gente? quando io assisto, sa che in Sicilia abbiamo le elezioni, dopo quello che si è detto di Lombardo, sì. Lombardo non si è presentato, ha fatto presentare ora un uomo nuovo, suo figlio, sì. E l'apertura della campagna politica... Vabbè, Rino, senta, lei vuole fare un comizio, sta parlando di tutto, Lombardo, come si fa a uscire dalla casta, vada sul concreto, mi dica una cosa concreta, la prego, non mi faccia dopo arrabbiare quello stasera. Che si è detto in una apertura, vedere 30.000, 40.000 persone che vanno a partecipare per un ragazzo, ma allora siamo noi altri che vogliamo tutte queste cose? Rino, mi arrendo. Giulio D'Ascoli. Giulio D'Ascoli. Ciao. Buonasera. Buonasera. Volevo dire una cosa a Parenzo, tornando un attimo indietro a Fiorito. Potrebbe fare un'inchiesta su quello che Fiorito ha fatto di attività come consigliere regionale in questi anni, perché abbiamo parlato tanto, no, di quello che lui avrebbe fatto con questi fondi, sì. Però perché non ci interessiamo anche del suo autostipendio da consigliere regionale? Siamo già al lavoro. Vedere quello che è l'attività che ha svolto in questi anni, non sarebbe interessante? Siamo già al lavoro con i nostri seguci. Ma guardi, i seguci della zanzara, che cosa sta chiedendo lei? Mi spieghi un attimo cosa sta chiedendo, che cosa? Che cosa sta chiedendo? Me lo dice? Mi piacerebbe conoscere l'attività, sì, da consigliere regionale di Fiorito, cioè quello che ha realizzato. Se lo vado a leggere su internet, se c'è. Cosa vuole che le dica io? L'attività da consigliere regionale, guarda, di Fiorito? Ma chi se ne frega? Cioè, non in questo momento dell'attività da consigliere regionale di Fiorito. Chi se ne frega, no, perché ti dirà, le dirà, le di... Fiorito le dirà che ha fatto la risoluzione, la cosa per il territorio e la disposizione di qui e il provvedimento di là. Le dirà che ha fatto un'attività normale sul territorio da consigliere regionale. Tutti hanno qualcosa da rispondere. Perfino la Minetti dice che ha fatto qualche risoluzione, ha fatto qualche intervento. Nado da Palermo, buonasera. Sì, buonasera, niente, io volevo dire questo. Ieri sera, in mezz'ora di telefonata con la Meloni, non siete riusciti, sì, a farle una domanda. Dopo, sì, non siete riusciti, sì, per due. È arrivato il genio, è arrivato il genio, è arrivato il genio. Fare una domanda la sera prima. È arrivato il genio, è arrivato il genio. È arrivato il genio. A Fiorito, alla mamma di all'avvocato di Fiorito. Alla un attimo solo, un attimo solo. Chi è adesso? Bortolussi. Ah, certo, la Regione Veneto, certo. Certo. Per il monogruppo, certo. Bravo. La trasmissione è forte, questa trasmissione. Bella, perché va sulla notizia, riesce. Stai zitto. Ah, guarda chi mi ha chiamato. Sì, sì, lo so chi ti ha chiamato, lo so. Cazzato nero, eh? Sì, adesso lo chiamiamo. Ha telefonato adesso e dice: l'ho fatto io quello spot lì. Vabbè. Adesso te le davi santa ragione, vedrai. Sì, sì, fallo chiamare. Per le cose vergognose che hai detto. Ma io non ho detto nulla, ho detto che fare lo spot e attirare la gente sull'eutanasia. Hai detto cose molto gravi, perché c'è il diritto a disporre del proprio corpo. Ma stai zitto, Luca da Pesaro. Lo Stato non decide sul mio corpo. No, chi c'era? Sempre Nado da Palermo, scusi. Nado. Volevo dire solo questo. Mi sei sembrati Vespa quando Berlusconi è andato a Porta a Porta, che non è riuscito a fare una domanda a Berlusconi, la stessa identica cosa. Lasciamolo e quando parlare. Grillo dice che il problema dell'Italia non è solo la politica, ma sono i giornalisti. Ma lascialo parlare, io do il numero di telefono alla regia. Parli, Nado, vado. Può tirare tutte le pietre che vuole. Ma non sto tirando pietre, ho espresso il mio parere e basta. Poi se dico, voi potete fare le vostre considerazioni. D'accordo, prego, ha detto le sue cose. Ma ha detto, cosa? Ha detto che non siamo riusciti a fare una domanda alla Meloni. Cioè, lei che domande avrebbe fatto alla Meloni? No, non lo so, io non sono un giornalista. Io sono e allora come cavolo fa a dire che non bisognava fare certe perché domande? Io sento quando un giornalista fa una domanda. E quando avete parlato del fidanzato della Meloni. Un minuto, due minuti, poi? E poi? Poi di che abbiamo parlato? Avete fatto salotto. Sì, può darsi che abbiamo fatto, in qualche momento abbiamo fatto salotto. Allora? Allora niente, abbiamo chiesto se si candidava, non si candidava, abbiamo chiesto se si candidava, se non si candidava, Berlusconi e tutte queste cose qui. Dunque? Ma niente. No, mi dica. Ho avuto questa impressione. L'impressione cosa? Quale impressione, Nado? L'impressione che quando ci sono persone che magari hanno un pochettino più di polso, voi vi tirate indietro. Ma polso su che cosa? Ma ci tiriamo indietro su cosa? Su cosa in concreto? Lei deve sapere, lei prima di parlare italiani, come tutti lei deve italiani, ma innanzitutto queste generalizzazioni. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Non ha fatto una domanda. Ma che ne sa? Ma che mi sembra di questo? Senta, caro Nado da Palermo, genio della musica e, della, e del giornalismo italiano. Se vuole venire a fare delle domande ficcanti, le famose domande ficcanti, le faccia lei, così forse ci riesce meglio, ha capito? Cioè, non faccia il fenomeno, eccetera. Non no, faccia il ma fenomeno. Non voglio fare nessun abbiamo fenomeno. Fatto salotto, sì, in alcuni casi facciamo salotto, e allora le dà fastidio che facciamo salotto? No, non le piace il salotto? Non le piace il salotto? Qualche domanda scomoda si potrebbe fare. Ma scomoda la Meloni su che? Ma paese. Mica ha rubato i soldi come Fiorito, amico mio, amico mio. Ma che cosa? Scomoda su che? Abbiamo detto che PDL è morto, eccetera. Ma che vuole di più? Io non ho capito. Che cosa dobbiamo fare? La dobbiamo impiccare? Che dobbiamo fare? Ma scomoda su... secondo ecco appunto, arriviamo al punto. Secondo lei la dovremmo impiccare, giusto? No, bravo. Questo è il grande esempio che ci dà, il grandissimo esempio che ci dà. Fabio da Roma. Sì, buonasera, salve. Vada. Io ho chiamato semplicemente perché non sono più assolutamente d'accordo, a lei non gliene frega niente, ma io non sono più assolutamente d'accordo i metodi che lei sta usando. Ma quali metodi, scusi? A lei non gliene frega niente, questo già lo so. Ma di cosa? Quali metodi? Quali metodi? Veramente, degenerando, signor Cruciani, sta sì. Veramente degenerando. A quel ragazzo ieri sera gli ho detto non capivo un cazzo. Sì. Questo vecchietto ha chiamato prima e gli ha detto non può perdere tempo, sì. Ma io penso ci sia anche un modo per parlare sì. Con persone. Si deve calmare, Cruciani, è vero, si deve sì, calmare. Sì, mi devo calmare, mi devo calmare. Guardi, glielo dico con molta sì. Pezzi, si deve calmare. Ma sta proprio esagerando, ma sì. Come le persone? Ma è una radio aperta alle opinioni o no? Ma se uno le esprime, se uno le esprime, sì, se uno non le esprime, io ho dei... persone, Cruciani, si renda conto. Allora, può darsi, sì, allora esprima un'opinione, Fabio. No, io ho chiamato solo per questo motivo. Bravo, ha detto la sua, ha detto la sua, benissimo. Vuole dire qualcos'altro, vuole aggiungere qualcos'altro? Sicuramente non gliene frega niente, però... Ma io non ho detto che non me ne frega niente, io ho detto che lei sta guardando dei piccoli pezzetti in cui sono sbrigativo con alcune persone, sono ruvido con alcune persone. Ci ma sono... anche in quei piccoli pezzetti, Cruciani, esagera. Ma esagera, questo lo dice lei che esagero. Luca da Pesaro, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io... grazie dell'opportunità di intervenire. Non sono contrario all'eutanasia, però trovo veramente disgustoso questo spot che avete bravo, anch'io la penso così. Anch'io la penso così, ma esattamente come lei. E ci tengo a spiegare perché. Se qualcuno avesse fatto uno spot del tipo cercati portatrice involontaria di feto da eliminare, io mi sarei sentito immorale, cioè, mi sarebbe fatto senso. È un invito ai malati terminali, è un invito ai malati terminali che desiderano aderire alla battaglia per l'eutanasia a partecipare con la loro vita, i loro corpi, la loro storia a questo questa necessaria battaglia. Non sono contro distanza e tanto per chiarire faccio parte di quelli che ed è bellissima l'idea fateli vivi. È bellissimo lo slogan fateli vivi, dire a un malato fatti vivo, perché è un modo per esserci, è un modo per rendere. Ha ragione Luca, ha ragione Luca, ha ragione Luca. Io penso che ci è una cosa essere... troppo seria per ho capito, ma lascia parlare un secondo. Io non sto dicendo che è poco seria, mi guarderei dal dire che è poco seria, ritengo anche che il dibattito debba esserci e sono aperto a confrontarmi su questi temi e soprattutto penso che sia importante che chi ha questa opinione possa promuovere ricerche, benchmark internazionali, porre il tema di come questo aspetto è vissuto in altri paesi, ci mancherebbe altro. Io trovo schifoso lo spot perché strumentalizza le persone che soffrono in nome di una battaglia. Se io voglio fare una battaglia per difendere una posizione, devo comunque farmi portatore e curatore di quella posizione. L'idea di dire fatevi vivi, cioè immolatevi sull'altare di questa battaglia, io la trovo disgustoso. Se può essere un feedback, ma lei lo può cestinare, ci mancherebbe altro, io non sono contrario all'eutanasia, come non sono contrario all'aborto, anche se poi... Vabbè, sono due cose molto diverse. Però dico, io non sono contrario al fatto che questi diritti ci siano, anche se personalmente non me ne vorrei avvalere, ma le garantisco che voterei a favore se fossi parlamentare perché credo nel fatto che ci debba essere libertà, però questo spot fa schifo, non trovo altri termini. Bravo Luca, ci sentiamo, dello stomaco, grazie tutto qui. Caro Parenzo, fra poco ti chiamo il tuo amico Cappato che si è inventato quello spot sull'eutanasia, se lo trovo, intanto sono troppo arrabbiato perché questa cosa qui è una cosa serissima. Sì, ma ho capito, ma si può anche essere contrari agli spot sull'eutanasia, no, perché lo spot dà un senso ma alla questo morte, lo dici tu, ma non ho capito. Dire dare un senso oddio alla vita. Ma non ho capito, ma o uno è d'accordo con te oppure no, qui è una una questione oggettiva. Ma cioè oggettiva ti chiedi cosa? Ai malati volontariamente di farsi vivi e diventare testimoni di va una bene. Battaglia di civiltà. Vabbè, ma tu sei militante radicale a tutti gli effetti. Sono, ma non è, sì, non sei militante radicale reato, a tutti. Non ho detto questo, però confessa, sono militante radicale è a tutti gli effetti. È una battaglia di civiltà. Ma quale battaglia di civiltà? Ma stai zitto. Stanno sequestrando i nostri corpi. Senti, amico mio, i paesi dove non c'è l'eutanasia non sono paesi incivili. Io te lo dice uno che in realtà non è così sfavorevole, ma non è che i paesi dove non c'è l'eutanasia attiva, cioè uno può andare lì a togliersi la vita come succede in alcuni paesi, in Olanda eccetera eccetera, siano paesi incivili. Non dire stupidaggini. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Gli studenti tornano in piazza, scontri con la polizia, cariche alta tensione a Roma, Torino e Milano. Il ministro Profumo, dissenso più forte senza violenza. Da Assisi, nuovo richiamo di Napolitano, mai come oggi serve senso morale. Illegalità e degrado provocano l'antipolitica, quadro politico inadeguato. Catricalà, Italia e i gruppi regionali potranno arrivare fino al 95%, mai più altri casi Lazio. La procura, no alla scarcerazione di Fiorito. La tentazione del PDL, azzerare tutto e ripartire con un progetto nuovo. Alemanno scuote il centrodestra per le elezioni a Roma, presentiamoci senza liste PDL. Domani l'assemblea del PD che dovrà scrivere le regole delle primarie. Renzi apre al doppio turno ma dice no all'obbligo di registrarsi in anticipo. La Grecia vicino al fallimento, il premier senza aiuti, a novembre finiscono i soldi, la disoccupazione mina la coesione sociale come nella Repubblica di Weimar. Calcio scommesse, il Tribunale del CONI riduce a 4 mesi la squalifica del tecnico della Juve Conte in panchina il 9 dicembre contro il Palermo. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. William da Genova, buonasera. Buonasera, niente complimenti Cruciani perché non ne vuole lei. Vada. Allora, dunque, io è un po' che pensavo a questa cosa, a parte stasera, non dovevo intervenire stasera, ma ieri comunque io credo che... È uguale, che... su. Esattamente, gli italiani se non dai un bello schiaffone non capiscono, quindi anche se è di cattivo gusto lo spot va benissimo. Cattivo gusto, come dice lei, ma va bene. No, ma io non ho detto nemmeno cattivo gusto, io ho detto semplicemente che non c'è bisogno di uno spot per l'eutanasia, ma non c'è no? bisogno. Un paese incivile, come no, sono d'accordo, civile, però non civile. È una questione barbaro. Sicuramente troppo annosa per non essere più affrontata o messa nel cassetto come tanti altri problemi. Allora? Secondariamente, no, su quello ero semplicemente, insomma, non credo sia niente di così drammatico, solita fuffa per distrarre. Quello ma che cosa chiedere, è fuffa per distrarre, scusi? Questa, no, non specificamente la sua, però in generale anche portare all'attenzione, visto che domani sicuramente se ne parlerà tantissimo, un problema come quello in momenti un pochettino più gravi come questi, sicuramente credo sia fuffa. Scusi, io non ho capito bene, caro William, che cos'è fuffa? Fuffa vuol dire i soliti argomenti. Ma chi? Capestro. Ma chi? Ma cosa? Cioè cosa? Di che sta parlando? Dell'eutanasia o delle primarie? No, l'eutanasia assolutamente e le primarie parimenti. Ma le primarie fuffa cosa? Ma di che sta parlando? Cioè le primarie di un partito, il modo in cui si sceglie la classe dirigente, un segretario, che lei lo chiama fuffa, ma che vuol dire? Perché? No, quando sono delle primarie serie. Ma in quello caso... è un altro aspetto. Ma perché lei chiama fuffa una discussione che c'è all'interno dei partiti? Non ho capito. Ma perché mi sembra che quella, specificamente in questo caso, a differenza degli altri anni, pur non essendo io del PD, la vedo assolutamente come una questione un pochettino diciamo irrisolvibile. Sono proprio due partiti, se vogliamo. Irrisolvibile. Va bene, William. Grazie. Ecco l'inventore dello spot, Marco Cappato. Benvenuto. Buonasera. Eccoci Bravo. Qui. Grazie. Cosa hai sentito di così drammatico? Benvenuto. Di così drammatico? Che cosa? Ci stiamo confrontando su una cosa. Tu sei l'autore di questo spot che significa attirare, caro Marco, attirare le persone che sono in una situazione complicata, attirarle verso una soluzione estrema o no? No, intanto io non ho sentito nulla di drammatico, ho solo chiesto se era possibile intervenire per spiegare l'obiettivo dello spot. Ma non qual c'è è niente, l'obiettivo dello spot? Non c'è niente di drammatico. Quello che accade in Italia è che del tema eutanasia non si parla. Non so, Hollande ne parla, nella campagna elettorale ci sono i dibattiti, eccetera. Da noi si parla soltanto quando c'è il singolo caso. E allora c'è l'emergenza. Welby, Englaro, la questione del cardinale Martini. Cioè non c'è, daremo i dati domani al nostro congresso dell'associazione Coscioni che si tiene al Palazzo Reale di Milano, e i dati di come la televisione Rai Mediaset, vabbè, però ma adesso non ci fare la pappardella su Rai Mediaset, ho finito la pappardella, non si riesce a discutere, non si riesce a parlare di eutanasia, d'accordo, va bene, le argomentazioni. Allora qui chi manca assolutamente in questo dibattito sono le persone che anche quotidianamente, molto serenamente. Ma non è vero, basta chiamare, ci sono un sacco di persone che vengono intervistate. Ogni tanto vengono, ci sono delle persone che vengono intervistate dai giornali e intervistate dalla televisione perché sono in condizioni disperate e chiedono di morire. Per cui non è vero che non vengano intervistate queste persone. La cosa chiara da dire è che la questione dell'eutanasia, cioè dell'eutanasia che volete voi, cioè dire che volontariamente uno può decidere: guardate, sto talmente male che voglio ammazzarmi, certo, come succede in Olanda, non è un'emergenza. Questo è il punto: non è un'emergenza come in questo paese. Allora, una situazione per la quale, come dicono i sondaggi, oltre la metà dei cittadini sono d'accordo a scegliere delle legislazioni di eutanasia regolamentata contro l'eutanasia clandestina, cioè quella proibita, e invece tutti gli altri partiti, tranne i radicali, sono contro, secondo me significa una questione politicamente rilevante. Sì, ma voi che eutanasia volete, scusa? Lo è per Olanda, in Francia lo è. D'accordo, anche per... d'accordo. Ma la che... vorremmo come in quei paesi che... senza dire che gli altri sono incivili. Cioè anche se uno è depresso può chiedere di essere... No, quello succede con l'eutanasia clandestina. Dove è regolamentata, cioè in Svizzera, in Belgio, in Lussemburgo e in Olanda, ci sono delle regole molto rigide e precise per aiutare i malati fino all'ultimo con le terapie del dolore. L'Italia invece fa schifo. Che tipo di malati? I malati affetti da malattie neurodegenerative o anche malati di cancro, ci sono molte tipologie di malattie nelle quali, nella ultima fase della malattia, si soffre in tale modo da non poterne più, non perché lo dica io, ma perché la persona stessa, ci sono persone che accettano e vogliono combattere fino alla fine e persone che voi volete, diciamo, come dire, io posso essere d'accordo assolutamente che queste persone, se chiedono di porre, come dire, un termine alle loro sofferenze, siano aiutate a farlo legalmente, d'accordo. Il piccolo problema che forse manca quando tu dici tanti sono intervistati e lo dicono, che quelli che lo dicono sono solitamente interviste anonime, perché se vengono fuori allo scoperto o sono interviste postume, quando sono già morti, o se vengono fuori allo scoperto, chi li aiuta, per esempio, andare all'estero a ottenere l'eutanasia rischia oltre 12 anni di carcere. Va bene, però lo spot a che serve? Scusami un attimo, fare lo questo spot... serve a raccogliere le testimonianze di queste persone, farle venire fuori allo scoperto per aiutare la gente a rendersi conto che dietro il dibattito, chiamiamolo ideologico, c'è una realtà sociale di persone in carne ed ossa. Un messaggio mi è arrivato proprio oggi. Ma è una banalizzazione della morte questa roba qui, una banalizzazione della morte. La banalizzazione della morte, credo che ci sia forse qualcosa di più grave, e cioè imporre una tortura a chi non la vuole. Naturalmente noi poi sappiamo, credo ce ne si possa dare atto, fare le cose molto seriamente, nel senso questo che non quando Piero Welby ha chiesto l'eutanasia, noi l'abbiamo aiutato per mesi a fare il contrario, cioè una grande battaglia politica per ottenere un diritto per tutti. Quindi... Vabbè, lo spot uno ne può fare a meno, secondo me, dello spot. Quante persone hanno chiamato fino adesso? Adesso non ti so dire quante hanno chiamato, ho dei messaggi che mi sono scelto qui, ma immagino che non ci sia tempo, ma il problema è che... No, ma quante persone? No, questo è curioso. Il quadro è chiaro, Marco, voglio capire quante persone hanno chiamato da quando questo spot circola, diciamo, su internet. Circola da 24 ore, io vedo ci sono diversi messaggi su Facebook, alcune email che sono arrivate al telefono in sede, ne ho qui una di un tetraplegico che dice... di averle provate tutte e fa l'elenco di tutte le cose che ha provato, e al settimo anno so che la legislazione italiana mi impedisce di poter fare una scelta di fine vita dignitosa. Cioè questo tetraplegico voi lo vorreste lo vorresti aiutare a morire, per esempio, tu lo aiuteresti a morire? Innanzitutto io lo vorrei aiutare, anzi chiederei a lui di aiutare una campagna politica. Vabbè, ma lascia perdere la campagna, lo aiuteresti a morire sicuro, lo per legalizzare quello che lui vuole, altrimenti essere... Ma non è che tutto quello che uno vuole va legalizzato. Dopodiché, rispondo alla tua domanda, e sì, certo, io se fosse per una persona, per un mio caro, aiuterei ad andare all'estero, anche se la legislazione italiana prevede pene severe anche per chi accompagna le persone. Va bene, grazie Marco, grazie. Franco d'Ascoli Piceno. Certo. Vai, Franco. Pronto, senti. Intanto lo spot, quello lì sull'eutanasia, ha avuto il suo effetto, perché ne stai parlando, quindi evidentemente hanno raggiunto lo scopo, cioè nel senso hanno raggiunto lo può scopo. Darsi, può darsi, può darsi. Poi? E quindi sono stati... L'altra cosa che ti volevo dire, io veramente non ti capisco, non ti faccio i miei complimenti perché sì. Non mi se piace. Se ci diamo del lei è meglio, perché io le ho dato del lei, diamoci del lei che è meglio, su. No, diamoci del tu. Beh, questo lo decide lei, se io dico diamoci da lei. Io del tu fa quello che ti pare. Va bene, Franco, senti, su. Senti, io ti voglio dire una cosa, tu vuoi scegliere il candidato di centro-sinistra e poi lo vuoi far votare a me, no? Che sono un elettore di centro-sinistra. Non ti sembra una cosa arrogante questa? Io sono uno, innanzitutto. Un uomo di destra. Ma che lo dici tu che sono un uomo di destra? Lo dici tu che sono un uomo di destra? Hai difeso Marchionne. Ma lei passa, lei... Come fai sbrocca, su sbrocchi. Candidato che poi devo votare io. Sbrocchi, sbrocchi, sbrocchi, sbrocchi. Sbrocchi bene. Sbrocchi, sbrocchi. Sbrocchi, ne dica di più, ne dica di più. No, tu. Io voglio sapere come fai a scegliere un candidato che poi dovrei votare. È sbagliata io. La premessa. È tutto sbagliato nella premessa. No, ma comunque, adesso te lo spiego, non ti preoccupare. Visto che l'argomento tira, risentiamo questo spot sull'eutanasia intanto. So. Questo è meraviglioso spot. Sì, sì. Ok, dai, siamo pronti. Giriamo. Eutanasia legale, scena prima, take 5. E azione. Ma dove sono i protagonisti? Cerchiamo malati terminali per ruolo da attore protagonista. Anche prima esperienza. Fatevi vivi su eutanasialegale.it. Allora... Mi suggerisce giustamente Vittorio Feltri che l'eutanasia è naturalmente una facoltà, non un obbligo, ma quello è abbastanza normale che sia così, anche se bisogna ribadirlo. Ecco, sono sul diritto. Sul deve diritto. Essere un diritto. Sì, ma regolata, va bene, io sono anche favorevole. Perché allora lo Stato deve decidere anche quante volte mi posso masturbare, se mi puoi permettere. Sì, ma la morte non è come la masturbazione. È uguale, il corpo è mio e lo gestisco io, non c'è lo Stato che decide. Monicelli si è suicidato, hai capito? Sì. Allora ci sono dei malati, se io fossi un malato terminale vorrei morire. E per questo voglio che lo Stato mi metta nelle condizioni di poterlo fare. Ho il diritto a non soffrire, è un tema troppo grande, troppo importante, perché in questo paese se ne deve discutere con libertà. Benissimo, benissimo, benissimo. E le testimonianze Massimo da Milano, d'accordo, ma però adesso basta col pippone, su, Massimo da Milano, dai. Fatti vivo. Va benissimo, Massimo da Milano, hai fatto il pippone, vai Massimo. Io do assolutamente ragione a Parenzo, comunque non è per quello che ho chiamato. Volevo semplicemente avevo un argomento, ma mi è scivolato via e praticamente era quel discorso di ieri di Busi, dell'intervista di Busi che voi avete mandato in onda. Sì. Secondo me si poteva tranquillamente non mandare in onda, perché tanto non ci interessa. Noi mandiamo in onda quasi tutto, guardi Massimo, quasi tutto, per cui io un attimo solo. Pronto? Sì? Ma chi è? Non bisogna più dirlo chi è. Massimo, allora? Niente, no, questa cosa qua, ma c'era una cosa più importante. Qual era la cosa più importante? Due giorni fa e tre giorni fa, perché sono stati due interventi, ma di un unico argomento. Il signor Sgarbi ha una radio network insieme al signor Marra, ha lasciato un'intervista, ha parlato di cose molto molto interessanti che io tra l'altro sapevo più o meno come funzionava. Visto che voi siete così amici di signor Sgarbi, perché non gli fate questa domanda dell'intervista che ha lasciato? Sì, ma che cosa ha detto? Scusi, sulla solita roba delle banche, del signoraggio bancario e queste stronzate qui? Sì, però è stato molto, molto chiaro e diciamo alla porta di tutti. Sì. Ecco, cosa che altri usano termini magari un po' più difficili da comprendere. Sono stati molto chiari, molto... È stato un bel discorso. Va bene. Me ne varrebbe la pena. Bene, grazie. Alessandro dalla provincia di Cremona. Sì, buonasera. Buonasera. Io chiamavo perché volevo semplicemente dire che non trovo corretto accusare i radicali di lanciare un messaggio troppo... Si sente poco, Glauco da Roma. Glauco da Roma, buonasera. Sì, sono qui. Vada. Guardi, intanto volevo interloquire sul metodo che lei usa nel condurre questa trasmissione. Io tempo fa ascoltavo malauguratamente la trasmissione di Aldo Forbice, che maltrattava in maniera miserevole gli ascoltatori che esprimevano opinioni contrarie, e non pensavo ci fossero trasmissioni che gli facevano il verso. La sua trasmissione, cioè il suo modo di condurre la trasmissione, fa il verso ad Aldo Forbice. Mi dispiace per lei. Le volevo dire che l'Italia è stufa della volgarità e dell'aggressività. Lei è completamente fuori da ogni... No, io non sono fuori da lei. Lei è una persona che tratta malissimo. Vabbè, ma dica quello che... Ma dica la sua opinione su una cosa. Le persone là il modo di esprimere la loro idea. Ma guardi che... Per quanto riguarda l'eutanasia, è un argomento estremamente delicato. Sì. Io ho 60 anni e vorrei che non ci fossero persone come lei che la buttano in caciara. Io non la sto buttando in caciara, ho chiamato pure i radicali, figuriamoci. Totalmente i pareri e le opinioni contrarie. Con un atteggiamento appena finito questo show ridicolo, mi ridà la parola. No, lo show ridicolo lo fa lei. L'ha fatto? La persona, l'ha finito, guardi, o no? Lo show ridicolo lo fa lei. L'ha finito lo o no? Respingo al mittente. Ma l'ha finito si o no? Dovrebbe vergognare. Ma l'ha finito di o no? Tenere una trasmissione che coinvolge migliaia di ascoltatori con quel piglio arrogante. Bene, ha fatto il suo comizietto? Ho fatto il mio comizietto come lei lo fa per tutta la sera, trattando la gente a pesci in faccia. Benissimo. Si vergogni. Benissimo, ha fatto il comizietto? Si è divertito? Io non mi sono affatto divertito perché a trattare con persone arroganti non mi diverto affatto. Si è divertito, però qualcuno, no? Qualcuno che glielo dica quanto è arrogante. Ma guardi che io più persone lo dicono, trattare a pesci in faccia da più uno persone che lo dicono e più mi diverto, figuriamoci. Cioè, lo per so, cui... lei infatti in questa maniera probabilmente crede di attirare gli ascolti, ma si sbaglia. Benissimo. Io non ascolterò mai più. Bravo, arrivederci. Bravo, Massimo da Genova. Ma non è vero. Non c'è, Andrea d'Asti. È lì attaccato. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Sì. Giuseppe, con lei volevo solo fare un appunto, cioè diciamo un'obiezione, perché lei sistematicamente afferma che i candidati alle regioni, quelli particolarmente un po' tipo il Pesce Spada o Trota, non dovrebbero essere candidati. Ma questo è sbagliatissimo, perché siamo in democrazia. Chiunque si può candidare, anche uno straccione. Il problema non sono tanto i candidati, ma sono i cittadini che li votano. Io è questo che volevo dirle. Per il resto sono d'accordo con lei all'80% su tutti gli altri problemi, diciamo. Però su questa cosa qua non ci siamo molto. Ecco, questo è quello che volevo dirle. Non ho capito. Pronto? Sì, sì, Andrea, non ho capito. Sì, posso ripetere tutto? No, non ho capito. Mi ripeta l'ultima cosa. Sì, no, sono d'accordo con lei all'80% su tutti gli argomenti, ad eccezione di questo, perché lei ripete sistematicamente che i candidati alle regioni, come il Trota, come il Pesce Spada, non dovrebbero candidarsi perché figli di papà. Questo io non sono d'accordo, semplicemente per il fatto che in democrazia chiunque si può candidare. Guardi, io non ho detto questo, ho detto semplicemente che la candidatura del signor Lombardo Junior... mi sembra una cosa ridicola, perché il padre dice che non si vuole più candidare, mette il figlio di 24 anni che ha esperienza politica zero e viene dall'università di Roma. È una cosa tutta costruita per portare più voti col nome di Lombardo. No, ma io sono d'accordo pienamente con lei, però purtroppo noi viviamo in democrazia e anche il più misero degli straccioni ha diritto di candidarsi, anche lei, ma anche sì, io. Ma ho capito, diciamo, ma così. Che vuol esatto, dire? Quindi diciamo non sono d'accordo su questa cosa qua, perché diciamo se poi invece, a differenza del padre, si dimostra una persona comunque capace, in base a cosa ha detto sembrerebbe che vuole fare grandi, grandi rivoluzioni, eccetera, eccetera. Io ne dubito, però diamogli una possibilità, questo sicuramente, tutto qua. Va bene, Andrea, grazie. Giuseppe da Lecce. Pronto? Salve, innanzitutto sono d'accordissimo su come conduce lei la trasmissione. Chi non la vuole sentire non può. Io cambi non telefono, non partecipi. Senta, io chiamavo per due cose. Innanzitutto sul discorso dei radicali. Lo spot lo stanno facendo con quei fondi che ancora danno a Radio Radicale, quindi con i soldi nostri. E poi volevo dire una cosa. Una cosa è Radio Radicale, una cosa è Biancofiore. Ah, lei vuole far ricoverare la Biancofiore? Sì, sì, io sono un dirigente del PDL della provincia di Lecce. E mi vergogno di appartenere al PDL quando sento personaggi del genere. Perché? Perché è una demente. Non dovrebbe farlo. Perché una demente? Scusi, perché una demente? Ma per quello che diceva nella sua trasmissione. Era veramente da ridere. Cioè, su Berlusconi, lei dice questo, sì, esatto, questo fanatismo nei confronti di Berlusconi, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Va bene, c'è Alessandro dalla provincia di Cremona? C'è. Sì, buonasera. Ecco, vada. Niente, ero in macchina, ascoltavo la discussione sull'eutanasia. Sì. E non trovo corretto, anzi trovo ipocrita accusare i radicali di usare un messaggio troppo arrogante o grossolano, perché secondo me chiunque di noi in quelle situazioni non sarebbe affatto pacato, ma sarebbe incazzato nero, quindi non vedo perché noi dobbiamo dire ai radicali che è un messaggio troppo, troppo arrogante, dovremmo un po' metterci noi nelle situazioni di queste persone. E questo collegato anche al fatto che in Italia purtroppo vi è una legislazione d'urgenza, e quindi magari i radicali stanno cercando di creare un dibattito, un'urgenza, in modo che i cialtroni che stanno a Montecitorio si accorgano e non so. Sia più duro, la dica tutta, è un sequestro di Stato, hanno sequestrato i nostri corpi. E ma no, ma sì, va bene, però ci dicessero quante volte ci possiamo masturbare, è la stessa cosa, il corpo è mio, ognuno può gestire il corpo, il proprio corpo nel modo migliore. Questa è l'altro, stasera è il comizio di Parenzo. Grazie Alessandro, abbiamo con noi una persona che si vuole ricandidare tra poco, se verrà sciolto il consiglio regionale, non so per quante volte, il presidente della regione Molise, Michele Iorio, buonasera PDL. Ah. Sì, buonasera a lei. Buonasera, lei si ricandiderà se verrà sciolto il consiglio regionale? Ah, io spero che non venga sciolto, sono all'inizio della mia legislatura. Dovesse essere sciolto, che... Iorio, dovesse essere sciolto. Certo che mi ricandido, non c'è nessuna ragione. Per quante, quante volte si è candidato lei, Iorio? L'ultima volta è questa. L'ultima volta è questa. Sarà, sarà questa. Questo, vabbè, questo meno male, nel senso che per carità... meno male lo dovrebbero dire i cittadini. No, sì, ma meno male non per lei, dico, perché magari ogni tanto... Cioè, non è che uno può fare il governatore per quanti anni l'ha fatto il governatore? Sono 10 anni. Sono 10 anni, ma insomma è un tempo sufficiente, no? I cittadini possono scegliere un altro governatore. No, vabbè. Senta un attimo, Iorio, ma voglio capire, è vero che voi avete una sede a Bruxelles? Certo. E perché la regione Molise deve avere una sede a Bruxelles? Perché è una regione come tutte le altre, svolgiamo a Bruxelles una serie di interventi sui fondi europei, sui rapporti con la Commissione. Quella sede l'abbiamo acquistata. Abbiamo... Quanto l'avete pagata? Cioè, vi siete fatti una sede? L'abbiamo pagata. Vi siete fatti a Bruxelles? Sì. Cioè, vi siete comprati un immobile? Abbiamo comprato un immobile come pagato altre regioni. Quanto? Pagato 1.600.000 euro. 1.600.000 euro? Ma perché avete comprato una sede? La regione Molise è una regione piccola, non è che ha bisogno di una sede comprata a Bruxelles. Questo glielo dico io con franchezza, cioè per carità, cioè 1.600.000 euro per comprarsi una sede a Bruxelles. Mi lasci dire, noi avevamo un fitto che ci costava circa 70.000 euro l'anno, due stanzette in un palazzo vicino alla sede della Commissione. Abbiamo trovato un'occasione buona di fare un investimento che sicuramente oggi ha un valore superiore a quello con il quale l'abbiamo acquistato, e con quei soldi sicuramente ripaghiamo l'investimento poi abbiamo una proprietà. Ho capito. Mi sembra un'operazione. Lei vada con un treno, con un aereo, poi torna a casa la sera. Ma che bisogno c'è di avere una sede fissa in Molise a Bruxelles? Venga presso la sede, così si rende conto di che cosa si fa a Bruxelles. Se ci vuole un treno o bisogna andarci a piedi, come lei forse preferirebbe. No, in treno. Il problema è che prima di parlare di queste cose che sembrano eclatanti, bisognerebbe rendersi conto di che cosa fa una regione a Bruxelles e in questo caso specifico rendersi conto se ha fatto un investimento o era meglio pagare un fitto come si faceva. Comunque, Iorio, basta in questo caso un signore che ogni tanto per sbrigare gli affari correnti del Molise, che non credo che a Bruxelles, va ogni tanto a Bruxelles, risolve. Non è vero, questo lo dice lei che basta un signore. Invece ci vuole la sede da un milione... Lei non conosce che cosa fa la regione a Bruxelles? No, conosco quello che fanno le regioni in Europa in generale. Dico semplicemente che bisogna risparmiare pure su... Credo che non tanto le conosce. Insomma, anche su queste cose... Ma quanti funzionari lavorano lì? Ora due funzionari di ruolo. Della regione? Della regione. Sì. Poi ci sono una serie di ragazzi che fanno stage, che fanno formazione, che fanno esperienza... lì. Cioè, quante persone lavorano in tutto, Iorio, a Bruxelles per il Molise? Due sono le persone fisse, diciamo. Due le persone fisse. Noi ospitiamo la segreteria dell'Euroregione Adriatica. Pure. Essendo io l'Euroregione Adriatica. Sì, è la prossima macroregione europea che a novembre il Consiglio d'Europa definirà in via definitiva. Non c'è dubbio. Ma come non c'è dubbio? Ma che gli dici non c'è dubbio? No, ma non c'è dubbio nel ma senso che... Ma non c'è dubbio, Iorio? Come non c'è dubbio? Ma ci sono tanti dubbi! No, tanti. i dubbi sono... Può avere tutti i dubbi che vuole, che non mi lascia impressionare dal fatto che alzi la voce. No. Io ma Iorio rispondo... mio, ma non alzo la voce, ma mi incazzo da morire perché non riesco a capire... Ma lei si può incazzare quanto vuole, non mi interessa, le ho dato la risposta che mi ha chiesto e gli ho spiegato le ragioni. Poi i suoi incazzamenti li sfogherà quando ritiene opportuno. Ma guardi, un mio amico, come combatte, Andrea, come un lotta. Mio amico Andrea Maresi mi manda un messaggino adesso bellissimo. Ma perché devi fare i nomi adesso delle persone bene, che ti mandano allora su? Allora niente, non dico neanche quello che mi ha detto. No, non dico, mi sono arrabbiato, mi sono fatto arrabbiare. No, Iorio mio, che stiamo parlando della regione ma lei Molise. Ha mai fatto Molise una giunta regionale eh? Il Molise è una regione costituzionalmente prevista, ma cosa capisce? C'è? È ma una regione che sta purtroppo bisognerebbe eliminarla e... lo deve dire il popolo italiano quando cambierà la Costituzione attraverso il suo Parlamento. Iorio, non lo deve dire lei in trasmissione. No, però io lo posso noi dire, posso esprimere un'opinione perché siamo una regione costituzionalmente prevista e va bene, e d'accordo, abbiamo le nostre responsabilità. Il tempo cambia, Iorio, il Molise cambierà, il Molise certo, ecco, probabilmente cambierà anche in meglio, penso, spero. Spero e che cambieranno tante altre cose, forse anche il Molise, ma non è un problema che si può porre dicendo che il Molise così piccolo non serve, cioè queste sono pareri. No, ma che serve il tutto, tempo che trovano. No, serve per... tutto, ma non portare armi, bagagli, una sede, bibì e bubù. Ma lei sta dicendo cose, parla di cose che non conosce. Ma mi dica, mi dica i risultati clamorosi portati a casa da questo UFI. Enormi i risultati per la mia regione. Sono enormi, i fondi europei, enormi risultati. I progetti europei. Ma quello sicuramente ci saranno stati i risultati. Rapporti con le altre realtà. Non c'è dubbio, le do rapporti con chi? No, ma le do anche ragione. Stai calmo, Parenzo, gli do anche ragione. Sicuramente qualcuno ha portato grandi risultati, ma la cosa su cui voglio insistere è questa. Ma è proprio necessario avere una sede da oltre un milione di euro a Bruxelles? No, allora ecco, mi devo spiegare. Il problema è che è necessaria una sede. Io avevo due stanzette che a Bruxelles, essendo un palazzo di uffici che ospitavano varie regioni, mi costava tanto quanto realizzare l'investimento che ho fatto attraverso un mutuo. E allora io, da buon padre di famiglia, oltre che da amministratore, ho pensato che invece di pagare un fitto, quello lo trasformo in investimento e tra qualche anno la regione sarà proprietaria comunque di però, un bene. Ma mica lo vende tanto! Però scusi, Iorio, abbia pazienza, uno poteva pure pensare di risparmiare, non di fare pari. Cioè, uno dice, vabbè, risparmio... Cioè, di risparmiare, di trovare una sede in fitto. Che ma no, una sede, uno dice tolgo la sede, prendo un bravissimo funzionario... Ma significa non capire che cosa ci si fa a Bruxelles con una sede. No, ma è proprio l'idea ma della sede, ha capito? Spiegare da tutte le altre regioni. No, ma infatti secondo me vanno tolte tutte le... Ma lei lo sa che ci sono tutte le regioni d'Europa a Bruxelles? Non è mai reso conto? Ma secondo me... L'Italia non potrebbe avere le sue regioni presenti a Bruxelles. Bah. Tutte le regioni d'Europa hanno la sede a Bruxelles. Tutte. Nessuna escluse. Purtroppo le cose bisogna conoscere. Ma lo so benissimo, che hanno spesso, hanno lei non lo sa, lei non lo sa. No, lo so che, lo so che tutte le regioni hanno le sedi, ma secondo me sono spese eccessive che possono essere fatte. Ecco, possono essere fatte. Possono essere ridotte, attraverso semplici funzionari con una loro casa che poi vanno negli uffici a trattare gli affari, eccetera. Ma stanno a casa, quindi ho capito. Vanno lì, Iorio, le dico io. Quando arriverà lei farà così. Ma no, lei Iorio dovrebbe dire: mandiamo un bel bravissimo funzionario, va lì, bussa così. Salve, sono un uomo di Iorio, voglio parlare del provvedimento bubù. Ah, chi così è? Si fa, avanti, ho capito. Sì. Se no le sedi... quando si farà così, probabilmente... Cioè le sedi... Manderemo l'uomo a bussare alle porte, sono l'uomo di Iorio, insomma. Ma è di Iorio come del presidente, come eccetera. Ma su, che stiamo esagerando, state scherzando sul fuoco, perché si sta distruggendo l'idea delle istituzioni in questo paese. In che senso, scusi? Per gli scandali che ci sono, condannabili 150.000 volte. Però con questo non si deve buttare fango su tutto e tutti, perché io credo che bisogna un senso di responsabilità ai cittadini. Abbiamo il dovere pure di dimostrarlo, perché questo paese sarà pure il paese in difficoltà. È un paese che è cresciuto anche con i fondi europei, anche con i rapporti con Scusi, Iorio, anche con gli scambi. No, non va bene, però secondo me posso dire essere. Va benissimo di fondi europei quello che vuole. Secondo me l'unica cosa è come dire, risparmiare anche su questo. Comunque abbiamo chiuso questo capitolo. Senta, oggi su Repubblica leggo, lei l'ha letto a pagina 11 di Repubblica, Molise in ospedale, sette parenti del governatore Iorio, oggetto di due inchieste per avere favoriti figli con soldi pubblici, una tra l'altro credo che si sia risolta a suo favore da poco, assunti all'ospedale di Isernia. Ha intenzione di querelare Repubblica oppure è vero che sette parenti... Ma no, io ho smesso di querelare perché mi sono semplicemente stufato di dare questa risposta. I miei parenti, cosiddetti parenti, cioè sono parenti che lavorano nella struttura, non nell'ospedale, ma nella struttura della ASL, complessivamente, in quel di Isernia. Quanti sono? Molti dei quali, cugini o anche altri familiari, sono prossimi alla pensione. E quindi li avrò assunti quando io tenevo 18-20 anni. Lei che ne dice? No, lei dice sono stato capace, avevo 18 anni, di sistemarli o di fargli vincere dei concorsi. Si parla sempre della famosa dinastia Iorio. Perché non mi chiedete le ragioni? Che sono professionisti come gli altri e che io a quell'età non avevo sicuramente modo di aiutarli. No, ma io non sto io sto dicendo semplicemente, allora, c'è scritto. Allora che cosa dice? Allora che vuole sapere? Scusi, Iorio, io le ho chiesto semplicemente. Oggi su Repubblica c'è scritto questo. Ma allora, Repubblica dice quello che vuoi. Io non li querelo più perché mi sono scocciato. Come scocciato si dice? Di ripetere cose. Allora si può dire che hanno scritto delle stronzate? Hanno detto almeno, vede, se lei legge attentamente Repubblica, purtroppo non può riprendersi gli articoli, ma ne fa uno ogni mese su questo stesso argomento. Sempre questa storia dei parenti. Sempre la storia dei parenti, sempre... Io ho risposto, ho scritto al direttore, non voglio denunciare perché dalla denuncia poi diventa un'altra notizia. Vabbè, insomma, lo dicessero, alla fine probabilmente i cittadini decideranno sul mio destino politico, non sarà certo questo articolo di Repubblica. Ma no, certo, figuriamoci. Ma lei è ancora nel PDL, Iorio? Io sono nel PDL. È nel PDL. Sono convinto che bisogna cambiare molte cose. Anche il simbolo? Anche il simbolo bisogna cambiare? Cioè bisogna togliere, Berlusconi vuole liberarsi del PDL, io lei lo sa, no? Vuole liberarsi del... Sì, io credo che Berlusconi abbia compreso che bisogna cambiare. Un attimo solo, che simbolo non simbolo. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Allora, sono le 8:00 24:00 24. Voglio chiedere al presidente della regione Molise Iorio se sa quanti uffici di rappresentanza hanno a Bruxelles le regioni tedesche. No, non lo so. Mi riferiscono, però ho notizie abbastanza certe che c'è un solo ufficio di rappresentanza per tutte le regioni tedesche a Bruxelles. Dunque non è vero ci sarà un solo immobile di rappresentare un ufficio. Vabbè, ci sarà anche un solo immobile. Era un'ipotesi che avevamo valutato qualche anno fa anche noi. Avevamo valutato di prendere una palazzina unica solo per tutte le regioni, ma non per quell'ufficio che dice quell'altro signore. Che insomma serve così per andare a bussare alla porta, eccetera, dividerla per piani. Però Iorio, ma perché non l'avete fatto allora? Perché non l'avete fatto? Non l'abbiamo fatto perché le regioni non hanno trovato l'accordo per farlo. Ho capito, perché ognuno vuole mantenere i propri immobili, le proprie burocrazie, eccetera. Sarà stato anche per questo. Anche per questo, anche voi avete fatto così, perché non siete. Cioè, va benissimo. Io non è che sto dicendo che lei è un bandito a mano armata, si figuri. Cioè, io sto dicendo semplicemente che non è che mi può venire a dire tutte le regioni d'Europa hanno un ufficio, perché non è vero, le regioni tedesche hanno un solo ufficio di rappresentanza. Ecco, vogliamo vedere quanto costa questo ufficio delle regioni tedesche. Ma sicuramente costerà di meno, guardi, rispetto alla somma di tutte le regioni italiane. Ma guardi, vabbè, se glielo posso assicurare. Vediamo, è così. Comunque, lei non lo sapeva quanto. Ma poi, scusi, un milione di euro, ma vuol dire che è un affitto. Vabbè, ma quello lasciamo perdere. L'ha pagato un milione di euro e dice che è stato un investimento. Noi con non possiamo saperlo. Ma un mese adesso. Di quanto? Di 70.000 euro? Prima era un affitto così, adesso dice che l'hanno comprato nel 2004, peraltro. Ma che tipo di roba era? 70.000 euro al mese? È una reggia, neanche Bill Gates. un po' troppo, no, effettivamente. 70.000 euro, no, 70.000 euro annui. Sì, anno, 12. Però la Basilicata ha 319.000 abitanti, voglio ricordare, ha un affitto di un milione, ha acquistato un immobile da 1.200.000 euro a Bruxelles. Vabbè, va bene tutto, per carità. Ma perché va bene tutto? Perché gli dici così a Iorio nostro? Perché? Perché? Perché? Perché Cruciani, caro Iorio, amico mio. No, ma va bene, era ironico, era ironico. Ma lui, no, tu glielo dici perché assolvi, va tutto bene, va bene così che mi fai. Ma chi non ha detto? Va bene. Devi dirgli a Iorio che è qui simpatico e combatte. Iorio, non va bene. Non ma va. Io l'ho detto che non va bene, secondo me, no. Deve essere, secondo me ci vuole un tu ufficio. Tu sei come quella mamma, ma che giustifica il bambino discolo. Tu lo ma giustifichi. Quando mai ci vuole un decreto del governo che ponga fine a queste robe qui? Basta, una sola sede per tutte le regioni, risparmi anche lì, via, via tutte le sedi, oh, delle regioni, un solo ufficio dove c'è un funzionario che ogni tanto va lì a trattare, esatto, gli affari della regione, punto, esatto, e basta. Esatto. Non è che ci vuole molto. Vabbè, insomma, bene, non è così comunque. Non è così perché non si vuole fare così, però sarebbe logico fare così, invece di ogni regione, anche quelle di... Secondo me non è logico, sarebbe utile un ufficio di tutte le regioni, io sarei anche favorevole. Con una sola persona per ogni regione, ferma, là, immobile, beh, che vabbè, ogni una tanto... Una sola persona, insomma, una persona... Perché poi, due, insomma, scusi, uno, perché uno, due, sì, della Basilicata per 319.000 abitanti? Perché due persone, invece no una? Una persona... Una persona, non due, dice lei. Quindi, insomma, se una persona si ammala, va in ferie, c'è, si chiude. Ma siamo a Bruxelles, ho capito, ma non è che c'è una cosa quotidiana. Comunque, vabbè, adesso lasciamo perdere. Per carità. Vabbè. Senta, lei è d'accordo sull'incandidabilità dei condannati? Sul fatto che i condannati, sì, non si devono, sì, candidare? Sì, condannati in via definitiva. Primo grado no, reati, Primo grado no. Primo grado no, e soprattutto per reati di corruzione. E come mai in primo grado no? Lei ha qualche condanna in primo grado? Sì, anche questo è... Vabbè, una comunque, che sì, condanna è, scusi? Ho una condanna per abuso in atti d'ufficio, sì, di primo grado, sì, sta svolgendosi, nei prossimi mesi ci sarà l'appello, sì, e io ritengo che in appello si chiarirà assolutamente la mia... Vabbè, quello è chiaro, lei si difende, per carità, è innocente fino al terzo grado di giudizio. Dunque, lei condannato dopo, in primo... E dopo 30 anni di, sì, attività politica. Va bene, abuso d'ufficio, primo grado, lei dice io mi posso... Cioè, se la legge per incandidabilità solamente per le sentenze definitive. Ma la legge così dice, la legge che c'è, o anche quella che stanno facendo. Sì. Vabbè. Non credo che possa... Parenzo, prevedere... tu che dici? Uno che è condannato in primo grado per abuso d'ufficio come il governatore, secondo me si può ricandidare oppure andrebbe... l'affetto e l'amore che posso avere per Iorio. Amore, adesso, esatto. Ma non esageriamo perché non mi sembra. Che conosco stasera. Ma sì, se uno ha avuto una condanna in primo grado per quel tipo di reato, quindi non perché per sbaglio ha urtato il guardrail di una strada con la sua fuoriserie, ma per un reato che attiene alla sua attività, cari amici, io direi proprio di no, che non dovrebbe essere candidato. Però questa è la tua opinione, benissimo. Però se poi quello... Quando si farà una legge in proposito sarà così. Però dopodiché gli voglio anche bene, figurati, è bravo. Ma perché gli devi volere bene per forza? Voglio bene, perché no, perché non si sottrae al confronto. Viene no, qui. No, perché ha capito in cuor suo che un abuso di ufficio per un amministratore è, diciamo... Che cos'è? Un reato ai limiti della... compatibilità del codice, perché cioè lei dice che è una robetta, è robetta, tipo, dice lei, no? No, è robetta. Sono, innanzitutto dovrebbe essere, se fosse definitivo sarebbe una cosa seria. Se non è definitivo, vabbè, quello d'accordo, la ma l'abuso d'ufficio lei dice che è una cosa, un non nulla, quasi. Guardi, qualche anno fa, se va a riprendersi anche le discussioni fatte sull'abuso d'ufficio, si è molto discusso su questo tipo di reato, se poteva essere o no, diciamo, considerato penale entro certi limiti. Poi non se ne è fatto più niente, come accade nel nostro paese spesso su queste questioni. Comunque adesso non è che voglio difendere l'abuso d'ufficio. Cioè, se no, secondo lei l'abuso d'ufficio non è un reato così grave, questo voleva dire lei, non è così grave. Sì, in sostanza questo volevo dire. Non è un reato così grave, dovrebbe essere accertato definitivamente. Vabbè, quello è sicuro, però non è un reato così grave. Certo, non è lo stupro, però... Ma non c'è dubbio, però... No, guardi, anche in via definitiva, quel tipo di reato, con una condanna definitiva, nel decreto in corso di approvazione, insomma, credo che non preveda l'incandidabilità. Addirittura, cioè, secondo lei uno che è condannato per abuso d'ufficio in via definitiva si può anche ricandidare? Si potrebbe anche secondo me, io sto parlando del codice. Vabbè, ma secondo lei è un reato... Certo, si porrebbe il problema, le dico, sono d'accordo, si porrebbe il problema. Cioè, si sentirebbe... Ci sarebbe quantomeno l'imbarazzo e forse, anzi no, senza forse, deciderei di non candidarmi più. Di non candidare, se fosse definitivo, diciamo, no? Quando è che ci sarebbe la sentenza definitiva? Chissà tra quanto di questo processo qua? No, penso che nel giro di un anno ci sarà sicuramente. Spero. Ci sarà nel giro di un anno. Però comunque di base l'abuso d'ufficio non è un reato così grave. Beh, lo dice il codice penale, che è uno dei reati. Vabbè, come è meno grave, insomma, poi deve essere un reato in ogni caso. No, beh, certo. Grazie Iorio, grazie di essere stato con noi. Grazie. Eccoci qui, 29 minuti, caro Parenzo, andiamo a Roma. Mauro, buonasera. Oh, buonasera. Dica. Io adesso vado a cena. Una domanda all'onorevole Iorio, che purtroppo è andato via. Vorrei sapere quant'era lo stipendio dei funzionari. Sì. E punto secondo, non ci ha detto quant'è il numero di personale reale che sta lì fra stagisti e quant'altro. Vabbè. Non ci ha detto quali sono gli impiegati. Punto terzo, la risposta la sappiamo. Siccome questi personali sono di una tale impudenza... che proprio addirittura vorrei avere ragione, credo posso venire solo di ridicolo, per cui gli posso dire onorevole Iorio una pernacchia non la faccia, però la faccia la pernacchia onorevole Iorio. Pasquale da Napoli, buonasera. È l'unica cosa, arrivederci Pasquale. Sì, buonasera Cruceni. Nulla, volevo un attimo ricollegarmi a questi ascoltatori, alcuni ascoltatori che non sono contenti dei suoi modi, no? Modi spicci, talvolta anche arroganti, ma probabilmente sono modi che vogliono arrivare poi al dunque, a una concretezza di discorso, no? Penso io. Ma la domanda che le faccio, quando viene la Santanché lì, lei potrebbe anche essere un pochino, potrebbe anche usare modi più spicci e più concreti come fa con gli altri. Io penso che lei c'ha due pesi e due misure. Ma lei non ascolta quando c'è la Santanché, che affido questo compito soprattutto a Parenzo io quando c'è la Santanché. Sì, lasci stare Parenzo, vedo che la sua spalla si è scelto un cretino come Parenzo, guardi, probabilmente proprio per avere la scena tutta per sé. Come dice? Volevo dire la Santanché. Come dice, non ho capito, un cretino? Scusi, aspetti un attimo. Voglio dire, no, ma per carità, ma non capisco. Mi hai detto che sono un cretino, no? Sì, è un cretino. Piacere, Parenzo. Penso che è così scontata sta cosa. Salve, cretino, piacere, Parenzo. Se mi lascia parlare, le spiego anche le cose. Piacere, Parenzo. Se mi lascia parlare, le spiego le cose. Fa semplicemente da spalla a Buceni e gli lascio la scena. Insomma, io penso che è un duetto questo che dal punto di vista di una buona informazione serva ben poco. Ma volevo dire, ma quando viene la Santanché, lei Cruciani, che è un giornalista scafato, è così profonda, ma non può dire a questa donna che si permette di dire che l'Italia fa schifo, che ha fatto schifo un po' anche lei quando lei e i suoi amici, l'avvocato Paniz e compagni, hanno fatto passare in Parlamento lo scorso novembre la bufala della Rubi, nipote di Mubarak. Guardi, questo lo ripetiamo sempre, per cui perdone, a parte che non c'era la Santanché, ma non c'era la Santanché in Parlamento. Lo so, dicendo, cioè non è che si è dissociata, no? Ma guardi, la cosa della nipote di Mubarak, lo ripetiamo sempre, inutile che lei ce lo rimprovera, non ci rompa le scatole su questo. Dire, cioè. Però lei poteva farlo presente alla Santanché. Ma perché oggi lo devo fare presente che non è più un argomento? Cruciani, lei è molto intelligente, Cruciani. Io la pregherei, guarda, da ultimo cretino dei suoi ascoltatori, utilizzi la sua intelligenza e il suo tempo bene per fare un servizio. Grazie a questo paese. Luigi, io non devo fare nessun servizio a questo paese. Luigi da Verona, buonasera. Buonasera, una forte provocazione voglio fare, Cruciani. Voi siete troppo buoni. Questi politici che hanno trovato con le mani nel sacco, bisogna ghigliottinarli. Ma chi in particolare? Tutti, Fiorito, i suoi compagni, tutti, anche il signor Iorio, 1 milione di euro che ha speso di cittadini italiani, di questa gente non ne possiamo più. Io la voglio provocare, se è capace, raccolga un sondaggio, quelli che telefono, pena di morte per questi signori. Ma che pena di morte? Lei vuole fare i processi sulla piazza pubblica come dice Grillo, eh? Basta. Dovete fare i preti, voi siete troppo buoni, credetemi. Ma che preti, sì, sì, buoni. Lei, il bravissimo signor Parenzo, dovete fare i preti, troppo buoni nei confronti di questi signori. Ormai la gente ne ha piene le scatole, vi voglio provocare. Va bene Luigi, pena di morte per i politici, bene, andiamo bene. Roberto dalla provincia di Cagliari. Roberto? Gelato Iervino. Buonasera. Sì, dica. No, volevo dire, sulla sono rimasto inorridito da quello spot sulla sull'eutanasia. Sì. Io ho avuto purtroppo dei casi di mia madre, altri parenti. E i malati terminali chiedono di morire quando non c'è più l'affetto dei parenti, degli amici, quando si sentono abbandonati, come anche le persone che magari falliscono. C'è anche questo aspetto, cioè, c'è anche questo aspetto. Se è circondato dall'affetto dei parenti, io non ho mai visto, ho visto anche a Vicenza, all'ospedale lì di unità spinale. Sì, però Roberto, qualcuno dice, insomma, è una facoltà, si deve scegliere, si deve scegliere. No. Sì, no. Oddio, in certi paesi l'hanno accettato, l'hanno ammesso. In Italia credo che il 99%, cioè anche perché l'esperienza di molti, queste persone che sono favorevoli all'eutanasia probabilmente non hanno mai avuto un caso personale. Ma scusi, per capire che un malato terminale vuole vivere fino all'ultimo, ma perché c'è oggi abbiamo la fortuna di avere la terapia del dolore che è avanzatissima. Ma lei sa la differenza che c'è tra obbligo e diritto? Qui si tratta, ecco, di io non voglio far affrontare questa discussione. Arrivederci. Eccoci, Massimo da San Marino, buonasera. Sì, buonasera. Vada. Affamare la bestia. Sì. Ha ragione Crociani, ma come si può pensare di affamare la bestia? Cioè, la bestia stessa dovrebbe affamarsi, non è pensabile. Quindi forse l'unica cosa sarebbe spegnere i riflettori su queste persone, su questi politici, non trovo gli aggettivi per definirli, non dare spazio, non farli neanche, cioè non devono avere visibilità. Se non hanno visibilità, perdono potere. Ma che vuol dire? Ma la visibilità bisogna dargliela cercando di, no, in qualche modo di, poi comunque, insomma, vuol dire, No, non bisogna dare visibilità. Ma che vuol dire non dare visibilità? Che vuol dire? Non dare visibilità bisogna, vuol dire non dare la possibilità di portare le proprie idee, che ormai non sono più credibili. Vabbè. Non sono più credibili quello. Va bene, va bene, grazie. Marco, provincia di Milano, buonasera. Buonasera, salve. Vada. Buonasera Crociani, Parenzo. Niente, io ho ascoltato prima la ma chi se ne frega che stai andando a cena? Scusami. No, da una persona che peraltro conosci anche, perché è la dottoressa Finzi, che ti ho passato questa Ah, la dottoressa Finzi, va bene. E poi ti vorrà salutare, credo. Vabbè, pazienza. Marco dalla provincia di Milano. Sì, però mi devi lasciar parlare. Marco dalla provincia di Milano. Sì, sono in autostrada. Io di fatto sono di Padova come Parenzo. Io sono un giovane artigiano di 30 anni, ascolto molto volentieri spesso la vostra trasmissione, sono molto contento, però volevo fare un piccolo proclama, perché faccia questo proclama, sì. Dopo che ho sentito Iorio ti passa veramente la voglia di non dell'eutanasia, sì, per gli artigiani che non ce la fanno più ad andare avanti. Io a 30 anni, dopo 7 anni di attività in proprio, non certo l'attività del papà che mi ha lasciato fatta con fatica con mio fratello, allora io resto di questa opinione: italiani, abbandonare la nave, andiamocene dall'Italia, abbandoniamo Iorio, purtroppo. No, voi Parenzo e Crociani vi portiamo via con noi, perché veramente ci allietate le serate. Abbandonare la nave, aspetto il proclama di Napolitano che dirà: sono aperti gli aeroporti, scegliete la destinazione che più vi piace, andate fuori dall'Italia a lavorare, che sicuramente avrete più successo, non avete più a che fare con i vari Iorio, con i vari ladri che ci rubano la vita e il denaro. Sono stato ieri dal commercialista che mi ha detto che devo potenzialmente pensare di aprirmi una S per difendermi dallo Stato. Questo è stato il consiglio del mio commercialista. Va bene, grazie. Livia da Milano. Buonasera. Dica. Buonasera a lei. Vorrei fare una piccola considerazione, rifacendomi un attimo a ciò che diceva il signore che lei ha apostrofato un po' in malo modo, comizietto, vi dicendo. Lei ha una trasmissione che è aperta al pubblico, giusto? per cui arrivano commenti buoni e commenti un po' perfidi, no? Io penso che lei dovrebbe accettare anche quelli che ma guardi, non sono... io accetto tutti, ma sarei un pazzo se non accettassi i commenti e le critiche da parte delle persone. Signora Livia, ma di che stiamo parlando? No, aspetti un attimo. Ma scusi, è la mia opinione, l'opinione di una persona. Ho capito, ma io infatti la sto lasciando parlare, io sto dicendo semplicemente che io dovrei, lei mi dice dovrei accettare le critiche, ma siamo qui per questo, è fatta per questo questa trasmissione, ma di che parliamo? No, ma se posso inserirmi? Si inserisca, avanti. Ecco, grazie, com'è carino, gentile. Dicevo, se lei non le accetta perché è molto arrogante, molto... Ma non occhioso. È vero, ma non Ma non è possibile, lei non mi lascia parlare. Vabbè. Se mi dice non è possibile, già questo vuol dire che non l'accetta, perché l'ho sentita diverse volte. Ma guardi, vabbè, non è una critica. Io penso comunque, parlo del mio caso, quando una persona mi critica, ci posso anche rimanere male, però accetto, la rifletto quella critica. Magari... Un attimo solo. Pronto? Sono il mio. Pronto? Ciao, come stai? Pronto? Sì. Pronto? Che diceva signora? Dicevo questo, che a volte fanno male determinate cose, però magari, io forse perché sono sempre in area migliorativa e credo che lo sia anche lei, questa è una cosa. La seconda cosa è questa, io penso che in un mondo così pieno di barbarie a tutti i livelli, se lei fosse un pochino più, tra virgolette, delicato, adesso è una mia provocazione, un termine un po' fortino, credo che farebbe più notizia, perché in un mondo dove tutti dicono cose volgari, orribili, cattive, perdite, forse l'approccio, le faccio un esempio banalissimo, ancora un secondo se me lo concede. Beh sì, una mi sto annoiando, però va bene. Vabbè, dai, non faccia così, allora vuol dire che non accetta proprio niente. Ma no, mi sto annoiando, però va bene. Sia un po' spiritoso, dai, sia un po' cavaliere, ok? Un attimo, Livio, un attimo solo. Ah. Pronto? Pronto? Pronto, cercavo il signor Bianco. Gerardo? Gerardo, sì. Sì, con chi parlo? Sono Cruciani, da Radio 24. Salve, buonasera. Un attimo. Sì, grazie. Signor Jerry White. Gerardo Bianco, grande figura di questo paese. No, perché ha detto una frase, con quel poco che ci danno come vitalizio per gente che ha 80 anni e magari è malata, ha difficoltà a muoversi e deve andare avanti con 4.000 euro di pensione, molti di noi. Pronto? Buonasera, onorevole Bianco, come sta? Sono Cruciani da Radio 24, la Zanzara. Pronto? Sì, sono Cruciani, Radio 24, la Zanzara, buonasera. Sì, mi dica. Come sta? Buonasera, ringrazio il Padre Eterno. Però, vecchiaia. Beh, la vecchiaia, lo so, senta. Però ho ricevuto oggi molte mail di gente, posso dire, posso usare questa parola, incazzata. Ma è naturale, è logico, è chiaro. E dopo che lei ha pronunciato questa frase in un articolo di Paolo Bracalini sul Giornale, con quel poco che ci danno come vitalizio per gente che ha 80 anni e magari è malata, ha difficoltà a muoversi e deve andare avanti con 4.000 euro di pensione. Molti di noi non riescono a campare e a Roma non ci vengono neppure più, dice Gerardo Bianco. Ora, però, 4.000 euro di pensione non è che sono pochi, Dunque, io non ho mai detto che sono pochi. Possono appena consentire una vita decente, questo è il punto. Ma come? 4.000 euro una vita decente? Guardi, ma abbia pazienza, insomma. Ma lei, non lo so, io... Lei, come giornalista, quanto prenderebbe? Quanto prende? Un funzionario di banca, quanto prende? Insomma, c'è una specie di caccia, vero? A me queste email, vero, indignate, di un popolo che non capisce ormai più nulla, vero? Sì. E che naturalmente mette tutto in un calderone, vero? Sì. Io che ovviamente credo di ragionare sulle cose, dico che praticamente un professore di università che va in pensione, quando prende? Un magistrato a cui noi eravamo collegati, quando prende? Punto. Io non ho capito, però se lei dice che bisogna andare avanti con 4.000 euro di pensione e questi 4.000 euro poi non sono granché, la gente un po' dice, Ho capito. Già sui vitalizi bisogna discutere se sia giusto o no avere un vitalizio. In più lei dice che con 4.000 euro uno riesce appena a campare, dipende dal livello di vita, naturalmente. Io praticamente ho fatto questa affermazione e la confermo, punto. Certo. Quale che siano gli sms che arrivano, perché è praticamente una tenendo presente si tratta peraltro di 12 mensilità, quindi sono anche meno di 4.000 euro. Beh, 12 mensilità, perché quanto dovrebbero essere, scusi? Come? Dovrebbero essere più di 12 mensilità. Eh beh, scusi un attimo, non ci sta la tredicesima, altri non ci sta. Beh, quando c'è la pensione non c'è più tredicesima e quattordicesima. No, come la pensione non c'è la tredicesima. Io non sono in pensione, non le so ste cose. Allora, non lo sa, ma il pensionato prende tranquillamente la tredicesima. Ma scusi, per esempio i viaggi, lei ancora viene rimborsato i viaggi che fa? Io sì, sono rimborsato per i viaggi entro 1.000 euro. Ma scusi, onorevole Bianco, lei quanti anni ha, mi perdoni? Io ho 81. 81 anni. Adesso, ma le pare normale che noi a 81 anni, io lo dico con tutto rispetto per una persona che io... Lo sa che io ogni anno vado in giro per il paese e solo quest'anno nel 2011 ho fatto oltre 60 conferenze nelle scuole in tutta Italia e solo nel mese di novembre c'è... Naturalmente ho capito, però onorevole Bianco, io dovrei chiedere a questi di pagarmi il viaggio, perché altrimenti non potrei andare avanti. Cioè, nel senso, se lei dovesse pagarsi i viaggi non potrebbe andare avanti? Ma è evidente, è chiaro, io dovrei spendere 1.500 euro di viaggi, è ovvio. Ma ho capito, ma una persona, scusi però onorevole Bianco, lei è in pensione. Lei è in pensione. Non è che sia un obbligo di Stato andare a fare questi viaggi. Potrebbe... Ho capito, ma lei si rende conto di una cosa molto elementare? Che nel momento in cui viene meno quello che è un supporto che 1.600 parlamentari danno alla vita culturale... Ma alla vita... che basta con questi ex parlamentari che pretendono ancora di fare la stessa vita di prima? Lei può avere tutte le idee che ritiene di avere, insomma, no, e può sostenere tutte le sue tesi. Io credo che non è che uno è andato in pensione e si mette in panchina. Ma no, c'è una cultura, c'è una conoscenza, c'è un patrimonio di idee, c'è una storia da difendere. Capito, ma lo sa quanto costano i viaggi degli ex deputati in tutto? 800.000 euro all'anno. Cosa sono 800.000 euro rispetto al contributo che danno in termini di cultura, di esperienza? Di cultura e di esperienza. No, alcuni sì, certamente, però non tutti. Su 2.700 parlamentari ci stanno 300 o 400 parlamentari che rappresentano un patrimonio di conoscenze, di esperienze in Italia. Ma che sì, non lo sognate. Parenzo, hai qualcosa da dire? No, voglio salutare. No, le saluto, le do la. Cioè, le voglio presentare il signor Parenzo. Lo conosce? No, ma ci conosciamo con il mitico Gerardo Bianco, perché presentammo il libro di Cicchitto a Roma tempo fa con Tiziano Maiolo. Ricordo. Ecco, ma certo che ricordo, è Luigi Bianco, è mica un politico di razza. Voglio dirti con affetto e stima da anni, senza mai aver votato. Vabbè, adesso hai fatto questa intervista per dire che non sei d'accordo, lo so. Non solo sono d'accordo, ma mi fumano da morire. Cioè, gli fumano i marroni. Da morire. Allora ho ottenuto il risultato. Beh, grande. Le persone in modo tale che poi ci riflettono e a un certo punto si raffreddano anche. È un grande Jerry White, è un grande. bravissimo, combatte oltre, insomma, viaggia, vuole che noi paghiamo i viaggi, perché dice che rappresenta la cultura in questo paese, il depositario della cultura parlamentare, e dice anche che 4.000 euro al mese, insomma, alla fine ci si campa sufficientemente. Cioè, si vive una vita dignitosa quando non si ha un badante, perché se poi è costretto uno, come sono gran parte dei parlamentari, sì, che hanno superato gli 80 anni, ad avere due o tre badanti, purtroppo, cosa che accade se uno ha bisogno. Ma scusi, di ma i parlamentari dopo dovrebbero diventare cittadini comuni, punto e basta, Gerardo Bianco. I parlamentari, una volta finito il mandato. Lei parte da un dato di fatto che deve essere questo. Che cos'è il parlamentare? Il parlamentare è stato un legislatore, è sostanzialmente il parlamentare. Ho capito, è stato al vertice e avrebbe dovuto essere considerato. Vabbè, ma dopo è un cittadino normale, signor Bianco. Allora, questo discorso che lei fa per il parlamentare lo faccia per i magistrati. Prendo il doppio di quello che lo faccia per scusi, diciamo, Bianco, lei quanto prende di pensione lei? Chi? Lei. Io l'ho dichiarato, l'ho detto, io prendo 5.500 euro. E con questi 5.500 euro ci campa bene oppure così così? No, io ci campo bene anche perché per fortuna ho altre entrate, perché altrimenti... Che entrate ha? Che entrate ha? Beh, questo, no, se permette, fa parte della privacy, non devo dire adesso. Beh, che ne so, che entrate è tutto. Lei dice i parlamentari, scusi, le paghiamo i viaggi, almeno mi dica che entrate ha, dato che i viaggi li paghiamo noi, eppure la pensione, eh. Senta, abbiamo punti di vista diversi. Se lei fa una comparazione fra quella che è la condizione e come vengono considerati gli ex parlamentari negli altri paesi. Ma non hanno questo trattamento, scusi. Ma come no? Ma voi non, non conoscete i fatti. Ma come no? Li conosciamo. Siete i provincialotti che guardate. Provincialotti. Lunedì prossimo vengono qui una delegazione di un paese peraltro in difficoltà, come sono i parlamentari irlandesi. Comunque la fondazione per esempio degli ex presidenti la cancellano, eh? La fondazione dei presidenti della Camera l'hanno cancellata, ha visto, sì. Ah, no, vabbè, hanno fatto una cosa cattiva secondo me. Perché? Perché insomma in questo paese sta perdendo la memoria. Lo so, ma la fondazione costa, ma che ce frega della fondazione degli ex dei presidenti della Camera? Allora, non è gli ex dipendenti, quella è la fondazione, è una fondazione che aveva uno scopo, una funzione, pubblicava i discorsi, curava i discorsi, sì, eccetera. Allora noi se l'hanno chiusa, assumiamo, proporrò, adesso non lo so perché mi pare che non è che l'abbiano chiusa. Sì, l'hanno deciso di chiudere, hanno deciso di chiuderla, come no? Comunque dopo ci ritorniamo. La ringrazio, buona serata. Io proporrò di prenderla noi, la facciamo funzionare noi. Grazie, buona serata. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore per fare un pasto da re. Dove sei, ma dove sei? Lasciami dormire. Dove sei, ma dove sei? Ti potrei... Eccoci qui, 800 24 00 24. È stato il nostro ospite il presidente dell'associazione ex parlamentari, 1600 associati su 2700 ex deputati e senatori complessivi, il quale aveva dichiarato al giornale, lo voglio ripetere, caro Parenzo, con quel poco che ci danno come vitalizio per gente che ha 80 anni e magari è malata, ha difficoltà a muoversi e deve andare avanti con 4000 euro di pensione. Molti di noi non riescono a campare, a Roma non ci vengono neppure più. Insomma, piange miseria per gli ex parlamentari. Da noi ha ribadito queste cose, anzi ha detto io prendo 5500 euro al mese circa, così ha detto, e non mi danno neppure la tredicesima e la quattordicesima. Ha battagliato bene. Poi si è nascosta per me. E la gente è sempre più incazzata di fronte a queste cose. Ha detto anche che gli pagano i rimborsi fino a un massimo di 1000 euro per i viaggi, per andare a fare le conferenze. Le conferenze. E che gli ex parlamentari sono depositari della cultura di questo paese. Capito? Capito, sì, ma guarda, ne stavo parlando proprio adesso con il tassista, il signor Marco, che è un grande ascoltatore della Zanzara, peraltro, e che è uno dei più grandi, pensate, sostenitori del governo Monti e delle tasse. Vero? Non sentita sta voce. È vero che lei sostiene Monti? Porca miseria, soprattutto quando ha cominciato a fare liberalizzazioni. Ecco. Vabbè. Capito? Ho capito. Fatto un'altra inchiesta. Allora, signora Livia, vuole concludere lei, signora Livia? Sì, assolutamente. Volevo semplicemente dire questo. Vede, lei mi ha detto che io l'annoio. Anche questa espressione, detta a una donna soprattutto, sì, e a qualsiasi persona, non è carina, non è fatta vabbè, carina. Io non sono carino, no, non sono simpatico. Abbia pazienza, Livia. Un attimo, abbia pazienza. Sia generoso con me. Ma io sono generosissimo, guardi, la sto facendo parlare, lei può dire quello che vuole, lei può dire quello che vuole. Sì, ma se mi lascia parlare, sì. Dico, non è stata un'espressione educata, non sempre si può, l'ho annoiata, non ne dubito, ma non sempre si può dire la verità, le pare. La saluto, le auguro una felice serata. Bene, Michele da Bari, buonasera. Grande buonasera. Sì. Allora, qui siamo, che Marco Bellocchio insiste nella sua posizione di mentitore, come ha mentito a Radio Radicale lunedì. Marco Bellocchio non solo non ha citato nessuna prova come gli è stato chiesto. Ma scusi, che c'entra adesso Marco Bellocchio? Ma su che cosa? Stavate parlando di eutanasia o no? Sì, allora? Allora quando ha detto che Eluana Englaro avrebbe voluto chiudere, cioè morire in quel modo, come tutti sanno, ha detto. E questo è falso. Vabbè, allora, questa è l'interpretazione del padre, è quello che dice il padre. Marco Bellocchio. perché ha mentito. Vabbè, siamo alla follia. Cruciani, non c'è trippa per gatti, anzi c'è uva per volpi, perché lei è il gatto e Parenzo è la volpe, quindi non c'è trippa per gatti se mi riferisco a Parenzo, non c'è uva per volpi se mi riferisco a lei Cruciani. Allora tornando a Bellocchio, sempre a Radio Radicale. Vabbè, dove si trova lei, Michele? Fratello e spirito di Gesù. E non sono cristiano, è va specifico bene. Che non sono un cristiano. Sì, certo. Gli ho detto, se non sei un disonesto, tu hai mentito pubblicamente dicendo che tutti sanno che Juan Ingaro voleva morire per fame e per sete. Mandagli subito voleva, la macchina. Sì, lo so. Che gli fosse anticipata la morte. Ma dove si trova lei? Dove si trova? Tutti sanno. Dove si trova lei? Zanza, caro Zanza, tu... caro Zeccone a Parenzo, va bene. Come tutti sanno, portatelo allora, via. Allora per due volte gli è stato dato un indirizzo di potersi correggere, sì. Diretta a Radio Radicale, l'indirizzo è Soprani Pensieri. Portatelo via, Mirko da Cesena, buonasera, signor Mirko. Mirko? Alessandro dalla provincia di Lucca. Sì, buonasera. Vada. Veramente, buonasera. Portatelo via per piacere, questo qui che inveiva cose. Innanzitutto volevo dire che già la cosa che ha detto il signor Jerry White sarebbe da chiudere tutto e andare tutti a Roma e levargli anche le case, che ha detto il signor Jerry White, ha detto ho due case, sì. Due appartamenti, non so se avete notato mentre parlava, delirava totalmente. Io dico, siete stati bravissimi, siete bravissimi a far venire fuori veramente il peggio dei politici, quello che hanno dentro, lo dicono sì. Tranquillamente, voi avete questa grande dote, siete veramente bravi, e dico, il fatto di uno che dichiara, io lavoro in banca e quotidianamente vedo purtroppo operai che vengono a cambiare assegni, sì. Anche perché chiedono l'anticipo sullo stipendio, e sentire uno che prende 5.000, ma io... Ma 5.500 come... euro e dice che sono sì sufficienti, soprattutto perché ha anche altre entrate. Ma una cosa, ma anche noi che nel settore bancario ora stiamo prendendo... Però lui dice, siccome noi abbiamo fatto i funzionari dello Stato al massimo livello, come i grandi avvocati, eccetera, eccetera, abbiamo diritto... Sì, solo che la differenza è che lui fa sempre il paragone con i magistrati. Io, diversamente dal signor Jerry White, ora sì. Ogni mattina che mi alzerò, anziché dire grazie signore per avermi donato due figli, è una casa, non lo ringrazierò per aver mandato al creatore uno che ci fa spendere 5.000 euro il mese. Abbi pazienza. Cioè, queste sono cose no, che vabbè, questo fuori. Abbia pazienza, adesso questo non è che si può augurare la morte alla gente così, no, eh. Ma allora, dico io, non si può andare avanti così e spendere 5.000 moltiplicato per quanti sono? 1.000. Un attimo solo, che sta parlando ancora questo da Bari, sentiamo. Sì, ma... infermità, avrebbe voluto morire distruggendo il nutrimento, cioè l'acqua e l'alimentazione, se si indica le prove. E allora io non sono un cristiano, perché... Paola da Roma, buonasera. Ma dov'è adesso? Sta parlando, sta continuando a parlare, non hai capito. Da solo? Sì, certo, Paola, dica. Secondo te lo porto il gelato o no? Non lo so, non mi interessa, fammi concentrare un attimo. Paola. Sì, scusami. Paola. Volevo farvi soltanto una domandina, piccola, voi siete giornalisti. Non avete mai sentito, siete mai stati nella stanza di un candidato qualsiasi, comunale, regionale, eccetera, in periodo elettorale? Sì. Non avete mai sentito parlare al telefono? Perché? Avete mai estrapolato, cioè fatto una statistica di quali sono gli argomenti principali? Gli argomenti principali saranno i voti? L'argomento principale, no, non sono i conti. I voti. Posti di lavoro, cioè la gente chiama dalle... Per avere posti di lavoro, per avere posti. Esatto, questo è l'unico argomento per cui tutte queste cose che vengono così clamorosamente denunciate non sono altro che intanto l'ultima cosa che succede di milioni di altre precedenti che nessuno assolutamente prende in considerazione. E poi... sono assolutamente un sistema, cioè non è una cosa, non è un episodio, è un sistema. Io ho lavorato 12 anni in Regione Lazio. Sì, e cosa ha visto? Cosa ha visto? Di tutti i colori. Lavoravo appunto. Beh, ci dica una cosa, ce ne dica uno di colore. Ne dico uno di colore. Lazio Service, la conoscete? La? Lazio Service, una società, un SPA regionale. Sì, allora? Regione Lazio. In letto service sono stati collocati 1200 persone con la scusa che erano precari. Di precario non ce n'era uno, tanto è vero, cioè, ho fatto. Vabbè, insomma, qual è lo scandalo di questa Lazio Service, signora Paola? Lazio Service è piena di 1200 persone che non fa un cavolo dalla mattina alla sera. Cioè, messi lì dai politici, messi lì dai politici. Vari politici, perché ha iniziato Storaci, ha continuato Marrazzo, Montino. Montino addirittura nella fase finale ha fatto 50-50 con la Polverini, cioè metà li metto io, metà li metti tu. Ho capito. Fatto che nessuno dei due dica niente, questa è una cosa. Grazie signora Paola. Per parlare poi di tutte le altre cose, cioè il viaggio a Bruxelles, le spese, lo so. Telefonini, eccetera, eccetera. Grazie Paola, abbiamo con noi Pino Staffa, presidente di un'associazione che ha creato SOS Trombati. Staffa, buonasera. Buonasera a voi. Da Pisa direttamente, o sbaglio? Sì, certo. Ma com'è che le è nata quest'idea di creare uno sportello per i politici, magari depressi perché trombati, scusi? Ma lo vede anche sulle notizie di oggi, sull'assessore Lombardo, Cattaneo, che se gli viene tagliato lo stipendio va in depressione, non ce la fa Beh, più. Ho letto questa cosa, dice Cattaneo, ho letto il decreto sul taglio alle regioni, drastica riduzione dell'indennità entro il 30 novembre e nessuna pensione, uno come me cosa deve fare? Scrive Cattaneo, non rubo e quindi non ho tesori all'estero, vivo di ciò che fra un mese mi verrà dimezzato e tra mutuo, rette, eccetera eccetera, non so come fare. Ora guadagno circa 8.000 euro per 12 mensilità, non è poco, è distante dai 14.000 di cui si favoleggia. Dopo circa la metà. Inoltre, come si legge sul suo sito web, è anche consigliere della SEA e membro del Consiglio di Sorveglianza Infrastrutture Lombarde SPA. Beh, insomma, caro signor Cattaneo, guadagno 8.000 euro al mese. 8.000 euro al mese, dice che se dimezzano tutto sarà rovinato perché ha fatto i mutui. Uno non può contare sullo stipendio da parlamentare o da consigliere regionale per l'eternità. Questo è il punto, no? Staffa. Vabbè, insomma, quante persone si sono già presentate da voi in pochi giorni? In tanti hanno telefonato, ma io credo anche soltanto per curiosità, perché come funziona. Ci faccia un nome di una persona che. I nomi non si possono fare. Cioè, hanno già chiamato diversi parlamentari? Hanno chiamato diversi consiglieri regionali o provinciali, di fuori regione toscana, per sapere cosa offriamo, a che prezzi, a che costi, cosa facciamo. Ma gente che ha dichiarato di essere depresso oppure che comunque vive una situazione complicata, che cosa hanno detto al telefono? L'esempio di Cattaneo è eccezionale, cioè tutti a dire che dopo tanti anni hanno degli impegni, figli che studiano all'estero oppure hanno dei mutui, delle cose che loro hanno dei problemi, come fanno ad andare avanti? E voi siete perfetti per queste persone? Noi? Siete perfetti per queste persone qui? Ma lo sportello è perfetto per queste persone. Però scusi, lo sportello è SOS Trombati, questo ancora mica è stato trombato. No, ma allora lo sportello è nato e si chiama SOS Politici, poi la stampa, le cose, in via è diventato SOS Trombati. Ho capito. Scusi un attimo, signor Staffa, però voi quanto vi fate pagare per le vostre consulenze psicologiche? Quanto vi fate assolutamente gratuito, e chi gli dà i soldi, scusi? Nessuno. Sì, e lei come si mantiene, scusi? Io faccio il mio lavoro, gli altri fanno il lavoro. Che lavoro fa? Io sono un consulente finanziario, c'è la psicologa che ha il suo lavoro, c'è il consulente legale che è un avvocato. SOS Politici, se avete dei problemi, delle situazioni gravi, delle situazioni da cui volete uscire, se siete depressi perché magari non trovate più posto, rivolgetevi al signor Pino Staffa, sportello SOS Politici, poi si è trasformato in SOS Trombati. Zanzare, dietro vedi in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma dirà te più vista in città e se no dormire. Zanzare, pomate, pomatine, cimbro nella macolur che niente fa. Eccoci, Simonetta da Pordenone, buonasera. Staffa, quanti politici fino adesso in tutto si sono rivolti a questo sportello SOS Trombati? Nell'ultime 24 ore abbiamo ricevuto 25 telefonate. 25 telefonate. Ma quali sono i vostri servizi? Che servizi offrite? Servizi psicologici, un aiuto di che tipo? delle consulenze, cioè una consulenza legale, una consulenza finanziaria, una consulenza della psicologa. E poi oltre alle consulenze di questo tipo, se uno proprio è grave, che succede? Beh, poi è grave, si ricovera, se è grave. Simonetta! Sì, buonasera, eccezionale lo sportello, ma io sono veramente preoccupata per il nostro comune amico Jerry. Perché? Perché volevo fare un appello, volevo chiedere a tutte quelle associazioni, le scuole, gli istituti che chiedono al signor Jerry di fare le conferenze, non chiamatelo, lasciategli fare una pensione felice, lasciate che vada con i suoi nipoti, lasciate che tenga i suoi soldi per i nipoti e per le future generazioni, non chiamatelo, non fatelo andare in giro per Italia con i treni sporchi, con le pulci, con gli aerei, lasciatelo a casa, che si faccia una pensione tranquilla. Cattaneo? Sì. Cruciani e Parenzo, buonasera. Buonasera Cruciani. Disturbiamo? Grande Cattaneo. No, sono in ufficio, quindi se volete potete chiamarmi anche sul numero. Ma mancano pochi minuti. Allora partiamo sul telefonino, funzionerà lo stesso. Come stai Cattaneo? Ma com'è che queste tue discussioni stanno, queste sue dichiarazioni sugli 8.000 euro stanno facendo impazzire la rete? 8.000 euro sono rovinato se mi tagliano lo stipendio. Guardi, non è che io sono improvvisamente ammattito. Sapevo che questa era la provocazione più forte che potevo fare, la più irritante, in qualche maniera anche quella percepita più violenta. Ecco, ma scusi se io ripeto, esattamente lei quanto guadagna tra assessore, consiglio di sorveglianza e infrastrutture lombarde, consigliere della SEA? Sorveglianza e infrastrutture lombarde è gratuito. SEA? Ho messo sulla rete la copia del mio statino di settembre, 6.420 euro, sì. Come assessore e consigliere regionale, e poi ho un emolumento. Il monumento da consigliere della SEA che è circa 2.000 euro, quindi sono certamente un privilegiato, sono consapevole di esserlo e voglio essere chiaro, ho grandissimo rispetto per chi fa fatica a arrivare alla fine del mese, anche perché sono figlio di un operaio e so cosa vuol dire vivere. Però scusi, consigliere regionale, se il consigliere regionale in Lazio guadagnano 13.000, lei non guadagna 13.000 euro netti? Io non guadagno 13.000 euro, ho messo sulla rete, lo possono vedere tutti, il mio statino, quello che ho guadagnato onnicomprensivo nel mese di settembre sono 6.420,66, indennità consigliare, indennità di assessore, trattamento di missione, in tutto lei tra consigliere della SEA e assessore guadagna, consigliere guadagna poco più di 8.000 euro, giusto? Sì. 8.000 euro. Se l'ipotesi del governo qual è? Quella di dimezzare tutto? L'ipotesi del governo è quello che entra il 30 di novembre vengano allineati questi emolumenti su quelli della regione più virtuosa. La regione più virtuosa sembra essere l'Umbria, in cui gli emolumenti sono ancora inferiori a quelli della Toscana, intorno ai 4.000 euro al mese. Vabbè, 4.000, poi 2.000 ancora dalla SEA, e lei comunque resta con 6.000, no? Guardi, io finirò di fare il consigliere della SEA alla fine di quest'anno e non credo che l'amministrazione di Milano mi voglia riconfermare, ma il problema non è l'emolumento. Che poi bisognerebbe discutere sulla compatibilità. E qual è allora? Ho voluto provocare sull'emolumento perché senza questa provocazione non si sarebbe. Ma è vero che tra muto, rette, eccetera, non sa come fare se fosse davvero. No, ma guardi, quello che è vero è che certamente chiunque di noi da un giorno con l'altro si vede dimezzato il proprio emolumento si trova in qualche difficoltà se è una persona onesta e seria. Magari lei ha fatto troppi mutui, Io ho un mutuo alto per. La casa con il mutuo, fa un mutuo alto, ma vede Cruciani, mi faccia dire questa cosa perché altrimenti la discussione fa no, 30 secondi, purtroppo l'abbiamo chiamata in ritardo. 30 secondi, ma lei non crede che qui stiamo buttando via sull'onda dell'irritazione popolare insieme all'acqua sporca della cattiva politica? Può darsi, ma dunque lei mi sta dicendo però che è giusto lei pensa che il suo stipendio sia corretto, che non bisogna dimezzarlo? Dicendo, me lo dica se lo sente. Sì, io penso, sto dicendo che lo stipendio di un politico va commisurato alle responsabilità che ha e ai risultati. Dunque il suo stipendio è giusto ed è sbagliato diminuirlo, io giusto? Io dico che per le responsabilità che ho, no, io e che hanno gli altri assessori di una regione grande come uno Stato, come la Lombardia, e per i risultati che stiamo non bisogna ridurre gli stipendi. Il momento è giusto, ma dico soprattutto che è sbagliato svenire il valore della politica, perché sia chi fa. Però scusi, le posso fare una domanda e poi chiudi a Cattaneo, purtroppo no, vorrei continuare. Uno può anche fare mutui meno forti, meno consistenti e mandare i figli in scuole che costano di meno, magari pubbliche, e non aspettarsi, guardi, poi riprendiamo un'altra settimana, e non aspettarsi magari che uno, cioè, di guadagnare la stessa cifra tutta la vita. Ci sentiamo lunedì, ciao.